Ongolingo na na sherika toe Kwala lukumba sho mama Na ina luka mwaye na mona yoteo Oke iwapyo sheri Na tamoli moto na moni yoteo Olali wapyo bato Na komi kole la lela ho Tango nyoso kato zonga ho Na beleli beleli ho Yesu masia zongi sa motema ho Na komi kole la lela ho Butu nyoso kato zonga ho Na beleli beleli ho Yesu masia zongi sa motema ho Na leli yo na yoki sango di kato e Ozui mwasi mosusu ngana mawa onzambe na milela Kato zonga ho Na beleli beleli ho Yesu masia Zongi sa motema ho Na komi kole la lela ho Butu nyoso Kato zonga ho Na beleli beleli ho Yesu masia Zongi sa motema Na na leli ho Kisango di kato yo Ozui mwasi mosusu Mwana mawa onzambe na milela Bolingo na gavoro mwana chapae Otamu isinga moto papa Zonga yo yo yo bolingo Sheri yo besi zinga mote mao Paso si yo mama o Na la la tenga makanisi o Decepcio mama o motema e molingo nanga bobo mwana mboka utamwisinga moto papa songa yo yo yo bolingo ye serio bebe singa motema o tasusio mama o mama tato yo yo yo motema e bolingo nanga bobo mwana shapa e utamwisinga moto papa songa yo yo yo bolingo sherio baby singa motema basusio mama mama ona